sentivi. Me l'aveva portato uno, dice, prova la lavatore a casa tua per come esce. Dopo 10 minuti ho visto oscillare il come si chiama, il display, ha già brillato la telefono, vieni subito a prendere, ti ho detto che sta partendo, gli ho detto, fagli fare il volo. Caspita, c'è questo in FM che il cervello mi copre Daniele. Va bene, 4.30 invece non ne trovi più, no. Quello, a parte che chi ce l'ha se li tiene. Trovi sempre 140, 4.40 adesso appunto li stanno un po' lasciando stare perché hanno quel problema, a meno che quello di Daniele non sia stato già trattato, l'hai già fatta la modifica, la revisione. Mi. Beh, quelli infatti chi ce l'ha se li tiene stretti, non li trovi nemmeno dai negozi di elettronica di usato, dai rivenditori soliti di roba amatoriale, ce l'hanno sempre 140, i 440 nemmeno più perché erano problematici per quella storia lì appunto. Dicevo, a meno che quello di Daniele non sia stato già revisionato. Daniele, sai niente? Non mi sente. Daniele, ma il papà è che è stato revisionato. È a posto, è stato, vabbè, è bello, se l'ha preso la negozio, mica gli ho dato così, no? Sono sempre da mandargli di nuovo indietro. No, ma già, se l'hanno revisionato, l'hanno messo tutto a posto, già va bene. Capito? Ormai ci stanno imbastando tutti, però con la questione delle come si chiama, delle culate che si prendono su Facebook, bisogna stare ben attenti, capito? Sì, comunque Antonello ha ragione, bisogna toccare con mano, vederli da apparati, dal vivo, possibilmente provarli è meglio, ma ordinare per posta, perché il rivenditore può dire quello che vuole, poi lo dicono chiaramente sul sito, anche Media Globe, c'è scritto, cioè, sull'usato non c'è garanzia, cioè, loro non vogliono sapere niente, una volta te lo vendono, ascolta, arrangi, poi a maggior ragione, come ha detto Claudio, se non trovi più i pezzi comincia a diventare un problema. Claudio, riprendi che io finisco di fare qua una cosa, che sto stendendo roba, dai, riprendi tu. Va bene, ok, ciao Daniele, ci sentiamo, buon quality, buone commissioni, buon tutto. Marco si sta spostando per estendere. Parlate Claudio. Se mi senti Daniele, ciao, buona serata, buon tutto le voci. Ciao Daniele, so che non mi sentirai, ma ti saluto lo stesso, dai. Magari questo ogni tanto molla la portante. E mi sa che anche oggi la propagazione sarà tribulami, come ieri. C'era un ambulotto che non finiva più. Va bene, vai Antonè. E questa è l'ora della propagazione. Ma se comincia ad arrivare la colonia, capito? Se vai su canale 20, potresti essere in frequenza pari, certo questa disco arriva in frequenza pari, 27.200, c'è quel ponte ripetitore che di tutto di più si sente, poi si sentono quelli che vengono sparati dalla colonia, una cosa assurda. Ci parlo tutti i giorni come se fossi al telefono, quindi è quando la stessa cosa quando ringrazio che facevo bene che mi rispondeva la Spagna, le Canarie tutti i giorni. Senti, sembrano deficienti, sta ridendo, come dire, non riuscite a modulare, come godo. Lo sento, ma sembra la modulazione di Antonio Bombolo quando vede, è uguale. Antonio Bombolo è FM. Ho sentito il video e ho spostato in FM, uguale identica la voce sua. Marco, tu sì che sei. Ti conviene comprarti un bel lignarone da 600, vedrai come il fugolo che trova il fermo. Io ormai non posso più usare il lignare, più di 300 non posso utilizzare. Da quando mi ha preso in pieno il fulmine a Mantova, ho dovuto comprarmi 300 euro di televisori, no, non ho fatto più quello sbaglio. No. Antenne grandi, se la prende in culo, ho messo la Energy, ci ho messo, pagato 60 euro, è nuova, perfetta, non c'è nessuna oscillazione, poi ce n'è un'altra di riserva che ce l'ho regalata a Giovanna. Ma va bene lo stesso come antenna, ha voglia c'è anche per i pollici. Che è cosa pubblico, ce l'ho lineare qua, ma quello da 600, devo solo sistemarlo. Beh, toccando la parola dice che in pratica devo cambiare due resistenze e poi due cose in carbone che c'è all'ingresso, mi ha detto, perché evidentemente questo lineare è stato modificato per essere pilotato con 20-25 watt e quella resistenza lì deve essere partita, una di quelle. Il finale non c'hanno niente, perché se io aumento il watt del baracchino sale fino a 100, quindi metto il finale, non possono essere Antonio, mi ha detto. Controlla, te lo dice, mi dite l'apposto, dice in seguito, mi ha mandato lo schermo, mi ha mandato su WhatsApp, adesso devo controllarmelo, vedere qual è il componente bruciato, così me lo cambio, le faccio le prove. Se ti serve usalo, se no lascia perdere, se ne affrutti. Va bene, ancora dai, se coincide sentiamo dopo la linea, perché metto a posto qua, devo fare uno spostamento qui, devo togliere una radio e mettere l'altra, visto che sta funzionando bene, così lascio accesa e vi ascolto, se mai ci sentiamo dopo qui. E non c'è problema, già siamo qua. Insomma, costende e poi già rientra, penso. Già sono l'ascolto io, su 10. Ciao. Ciao Claudio, ci sentiamo. Alla prossima, dai, io penso che staccherò dopo. Dai, ok. Un saluto ci sarà a tutti, già sono qua in agguato, se mi serve qualcosa prova gente, fammi del jack. Aia, il crampo al piede. No, un'ultima cosa ti volevo chiedere, come la trovi questa modulazione con questo microfono amplificato da palmo? Abbastanza chiara al tuo orecchio? Sì, sempre bene Marco, sempre bene. Tante volte ti ascolto, ma esci molto molto bene, bello chiaro, le prove che fai sono molto fatto bene, diciamo, un bel corrispondono a tutto, non c'è problema. Ok, da, non lo chiedo perché questo microfono quando lo metti a manetta tende a spingere troppo e mi dicono che è eccessivo, io parlo anche piano, se non lo metto a metà, tu pensa che questo a metà rende quanto l'M95 a manetta. Si sentirà anche mamma dall'altra camera che sta parlando al telefono. Vabbè, dai, ok, di nuovo Claudio, grazie di essere entrato per i saluti, ti ho detto, questa è casa tua, entra quando vuoi, tanto qua la 27 purtroppo già lo sai, no? Alcuni cibi sono mancati, qualcuno, qualche lutto in famiglia è decimata di brutto la 27. La cosa buona se Alghero un po' la tiene viva, dai. Speriamo, ma peccato, io facevo la trascinatore, ma purtroppo ho tanti anni e io ho finito, perché altrimenti non mi dedico a fare reanimatore a tempo pieno, però ogni tanto fare due chiacchiere e salutarvi mi fa piacere, io non c'ho niente con nessuno, figurati. Tutto qua. Va bene Marco, sentiamo dopo. Dai, sono in agguato comunque, sono qua. Tanto sto scarrellando per fare delle prove con questa radio, però se va tutto bene. Ehi, ciao Marco, ciao Claudia, ci sentiamo, già sono d'ascolto qua. Cappa, via. Ah, comunque Antone, sarei stato curioso di vedere come arrivavo lì, Alghero. E qual era? Con chi hai parlato ieri notte? Qual era? Era Angelo oppure l'altro? Loro chi due, come si chiama? Angelo mi sembra che era, se non mi ricordo male. L'altro giorno dopo che io sono andato fino alle 2 di notte. Eia, allora vabbè, allora il segnale lo conosco già, perché praticamente ero 9 ma con aiutino, quindi con 4 watt e 2 Santiago in meno, 7. Lui è in zona aeroporto. Quello che frega me, ripeto sempre, sono 50 metri di cavo, quindi più da quella volta che ho dovuto aggiungere il barilotto, è un peccato, vabbè, un po' di perdita la darà, ma questo ciò, questo uso, dai. Per tutto il resto già c'è RM Italy. Vabbè, quello sì, Pignale già funziona bene se lo usi, ti dà qualche spintarella in più, la verità. Sì, guai, il rapporto prezzo Santiago diciamo accettabile, cioè due Santiago in più sono anche la differenza da non essere sentito a essere sentito. Poi vabbè, ieri c'era un caos indicibile, però ero 9 con l'aiutino là, quindi presumo 7 senza niente. Va bene, Antone, io sono costretto a staccare però, completo qua la roba, poi mi asseno un po' di TV eccetera, e oggi veramente, io non so se sia un caso, ma da quella cosa che sei tu, sempre più stanco a livello cardiaco, ma secondo me ce l'hanno messa tutti dietro con queste, già hai capito, no? Con questi punturini. E io l'ho sentito oggi, un'altra variante è l'incinami, capito? Dello stesso COVID, un altro ceppo hanno trovato di Wuhan, quindi se poco poco dovesse succedere che fugge da lì come l'altra volta, ci passiamo di nuovo, capito? Per quello c'è paura a cosa il virologo della viaria, capito? L'influenza viaria che sta succedendo per gli uccelli e roba del genere, se vai a contatto con quegli animali sei buttito, capito? Infatti il cane quando lo porto non lo porto più io a fare la pipì e la cacca nel giardinetto, ma bensì vicino a cosa, nel marciapiede e basta. Perché sono più tranquillo, perché qui ci sono piccioni, ci sono corvi, capito? Si posano e cosa ne so se volte per sbaglio c'erano da avviare a casa, mi si attacca al cane, la cane, siccome io l'ho creduto sempre e poi l'ho messo a palletto nostro, capito? Perché fa il badante a Simona, fa come sto facendo anche adesso, ogni tanto quando mi chiama parte dalla camera da letto, il cane viene qui e mi chiama e vuole che vado dentro. Sì, ho sentito parlare di questa viaria, a seconda di che ceppo è, potrebbe essere il colpo di grazia, ma già sta arrivando un asteroide, ma speriamo che ci becchi in pieno, ci porti via tutti, è che è piccolo, capito, è un asteroide da massimo 500 metri, piccolo, non è come quello dei dinosauri che era di 10 km, che ha fatto estinguere i dinosauri, ma confidiamo nell'asteroide comunque, dai. Guarda, se dovesse scendere, io spero che scenda lì dove c'è il Cremlino, per 500 metri già mi basta, già ne fa danno lì. Nella Piazza Rossa, fa un bel buco. E vabbè, la colpa non sono nemmeno di quelli. In questa situazione tutti hanno colpe, tutti hanno grossi interessi, prima hanno detto che era una guerra per l'autonomia di un popolo, per la libertà, invece alla fine era tutta una questione di gas, di riserve di minerali, terre rare, come le chiamano. Tutto questione di interesse, non c'entra niente né la libertà, né l'autonomia di un popolo, né niente, lasciamo perdere, fanno schifo i politici, tutti e i giornalisti, non ne parliamo, che hanno fatto una disinformazione terrificante, vergognosa potrei dire. Io lo so, hanno petrolio, terre rare, 500 miliardi di dollari voleva quello scemo, visione con Putin, tipo come l'ha fatto la Germania Est con la Germania Ovest, la stessa cosa vogliono fare, poi si vogliono spartire ciò che c'è sotto, capito? Anche la Groenlandia si vuole prendere perché lì ci sono i giacimenti, gira, se dovessero trovare lì a Oristano un bel po' di petrolio e terre, vabbè, terre rare qui ce ne abbiamo, cioè, oro e roba del genere, guardi che cazzo che non vengano qui gli americani a rompere i coglioni. Mezzo Sardegna si prendono con la scusa di fare un corso, hai capito? Siccome noi siamo indebitati, gli italiani, per colpa della guerra che c'è stata, stiamo dando tutto a loro, noi non ci abbiamo niente. In cambio di armi, vedrai, saranno costretti come stava facendo con le paleoliche, capito? Che ce l'ha messa in culo, dai. Draghi, un altro amico. Sì, ma ogni tanto Trump, ecco perché io ero contrario, diciamo a eleggere, vabbè quelle sono in un altro paese, eleggere uno troppo pieno di soldi e troppo pieno di sé, non è cosa buona. È come quando se ne è uscito che voleva praticamente fare in modo di allontanare i palestinesi dalla striscia di Gaza in modo da aver tempo di ricostruire, però a quanto pare si voleva comprare la striscia di Gaza, ricostruire, fare tutto bello, cioè si vuole fare una specie di Costa Smeralda e poi finirà in mano agli ebrei ovviamente. Infatti aveva fatto capire che dice non è detto che i palestinesi possano rientrare nei loro territori, questo è scemo, vabbè le spara grosse, cioè lo dice magari non lo fa, però quando uno è troppo ricco, troppo in soldi, poi diventa anche il presidente di uno dei due o tre stati più potenti al mondo, lì sempre, lo dico a parole mie, pisciano un po' fuori dal vaso, capito? Ci vorrebbe una persona più modesta, più normale come presidente, non uno che bada troppo anche alle sue saccocce e ai suoi interessi. Cappa. Carità, quando ci sono i soldi che trovano come fare i soldi del gioco che ci mettono le mani sopra, fanno di tutto. Vedrà che faremo la stessa fine anche noi in Italia, con i debiti che abbiamo, noi arriveremo a diventare come la Grecia, partiremo la fame, te lo dico io. Allora, il primo scemo che viene qui, gli daremo la terra per poter versare i minerali, cosa del genere, capito, e lui ci ripaga con quello. Lui si piglia i minerali e poi noi gira i soldi per pagarci i debiti con l'Europa. E poi l'euro, a dirla tutta, l'euro ha dato il colpo di grazia a un po' di persone, lasciamo perdere, gente che si rischia, vabbè, amiche di mamma, adesso non ne parlo qua, amiche di mamma che si sono trovate nella cacca vera e propria, perché le pensioni, sia gli stipendi sia le pensioni non sono più adeguati, e i rincari continui, ogni cosa che succede è un aumento, ogni pandemia aumenta tutto, aumenta benzina, generi alimentari, poi ne abbiamo parlato l'altro giorno, ormai andare dello spin non è più conveniente come lo era, che ne so, 5-10 anni fa, con la scusa della pandemia, con la scusa delle guerre, guerre alle porte, tutto rincara, tutto, benzina, generi alimentari, che ah. Capito Antonello? E' aumentato tutto, sto succedendo, sì, quando io vado con 50 euro non conto niente, è lo spi. A volte vado da MD e riesco a, capito, a fare, a riempirmi un pochettino di più le buste, ma lo spi di via Carlo Felice è una cosa allucinante, via Milano invece è leggermente meno caro, si compra meglio, la verità. E io anche da Lido l'ho visto, ti ho detto la stessa cosa, il solito esempio del signore che usciva con la moglie, si guardava il carrello e dice, dice abbiamo speso 50 euro, che voglio ricordare che erano nel 2001 100.000 lire, adesso probabilmente sarebbero di più, proporzionate, no? Dice, cosa abbiamo con 50 euro, cosa abbiamo? Il carrello vuoto, lui gaga, proprio ha detto, due gagani abbiamo comprato, per dire, quindi non siamo i soli a dirlo. Sì, perché la luce, non ti sei accorto che è aumentata, io pagavo di solito intorno 80, 120 massimo, ma non di più, questo mese mi è arrivato 345. Sono andato stamattina a riallene, mi stavano facendo pagare la luce a 25 centesimi a kilowattore, capito? Non 15, 25, pezzo pieno. Sono andato di lì stamattina immediatamente, ho detto mi cambi il contratto. E tu devo pagare meno, cioè a 104, quindi dietro l'IVA io non devo pagarla, prima di tutto. E poi cambiando gestore, io guarda, mi baso sulle mezze stagioni. Cioè primavera e autunno, no, quelle non troppo calde e non troppo fredde. E secondo me con l'energia, visto che è passato poco tempo da quando ce l'abbiamo, no? Quei 20 euro in più, prima veniva ogni due mesi tipo 120, adesso sempre 130, anzi più 140 abbondanti, quindi quei 20 euro in più ogni bimestre vengono. Invece va bene in inverno per colpa di queste stufe elettriche che vuole mamma, dice il gas la teme, ha paura del monossido, ha paura di tutto. Purtroppo mamma, vabbè, gli anziani un po', quando invecchiano un po' male hanno mille paure. E allora vuole quella elettrica. Infatti è arrivata a 256 euro di luce, quasi il doppio del normale nostro consumo, ecco. Tutto per cosa? Per una stufetta che fa più luce che calore. Già lo so, già lo so. C'è mia nipote che c'ha la stufa a pelle e la vuole fare fuori. Io già me la faccio dare, mi piazzo la stufa a pelle. Il problema è che devo comprare il pellet dallo spi, il sacchetto, cazzo, è alle gambe delle nocche. Grazie, ci vuole sempre una macchina, ci vuole, mica ci posso portare, a meno che non mi pigli una bicicletta, ci metto il cavello davanti, il pellet con il cavello. Guarda, io una volta da quel venditore napoletano, no, quello che vende cose usate, ma anche cose nuove vendeva all'epoca, quando era un po' più, quando era un po' migliore, no? Vendeva le biciclette nuove, tre ruote col carrello dietro, non carrello, scusa, il cestino. C'è un bel cestinetto dietro, bello grande, cioè lì ci potevi fare veramente una spesa, oppure andartene in campagna a fare coso, bietola, spaghi, funghi, quello che volevi, capito? Tipo quella che vedi in Vietnam. Una cosa del genere sarebbe fattibile, però poi non le ha vendute più, ha venduto roba più che altro usata e io non ci sono più andato perché a me non piace. Vabbè, come non mi piace nemmeno più Portobello, cioè la roba, le occasioni sono rare, e le altre volte hanno cose quasi invendibili che vai poi un giorno, una settimana, un mese, sono sempre lì, capito, non interessano a nessuno. Io mi guardo poi la roba elettronica sempre, giusto qualche videoregistratore nuovo lo trovi a 20 euro, 25, c'ho la pila di videoregistratori e poi alla fine giusto per averli, ma alla fine non è che li usi, non li usi nemmeno per registrare, più che altro per leggere vecchi film in cassetta e così, capito? Io ho 150 di videocassette io qua, capito, nuove sono, un video è stato prima, avevo tre di videocassette, poi due li ho regalati, me ne sono tenuto uno, un Philips mi sono tenuto, perché funziona bene ancora, poi c'ho tre DVD, figurati. 150 video, come so, tutte porno? Ah, tutte i film originali, tutta roba che aveva rubato coso, Luca, come si chiama, quello che aveva spazzato, come si chiamava di cognome, adesso non mi viene in mente adesso, quello che abitava di fronte a casa mia. Ma cosa sono, ex videoteca? È proprio la videoteca, sono, sì. Luca Aldani me l'aveva regalato. Luca, non lui. La moglie me l'ha regalato. Dicendo, i due ti servono che io ce li sto buttando. E tu l'abbi. E me l'ha dato, un centinaio me l'ha dato. Cazzo, ho detto, e questo, dove ti avevo procurato questa videocassetta? E ci siamo fatti dare, dice, dalla videoteca, poi non l'abbiamo più istituito. Cazzo, immaginate il dubbio. Oh! Ah, non era loro la biblioteca, cioè roba affittata e mai restituita, minchia. E poi le videoteche erano passate gradualmente dalle videocassette ai DVD. Poi però non se ne è fatto nulla. Con lo streaming online, i film te li guardi in streaming, con qualche abbonamento. Scusa. Devo bere, Antonello. Bevi, non c'è problema. C'è tutto TV poi, non è che te lo metti nel telefonino e ti guardi il film, solo che te ne mangia i giga, cazzo, come usare mid-range vital. Capito? Conviene più un coso agganciare, un computer di quelli grandi, con wifi e... dal computer scarica direttamente al televisore e te lo guardi dal televisore stesso e si vede meglio. Aspetta, caspita, mi è venuto un colpo di tosse prima perché ero con la gola asciutta e continuavo a parlare. E cosa ti stavo dicendo? Dicevo lo streaming oppure torrent, la roba sbaffa da torrent, se esiste ancora e non lo so. Una volta c'era nei primi 2000 WinMX, si chiamava così, WinMX, tu cercavi tutto piratato, ti scaricavi la roba. C'è tutto TV adesso, è gratis, cosa? Dove te le mangi ai giga, capito? Tu sai che nel telefonino, poi dal telefonino passi direttamente con lo, tramite il telefonino, la televisione smart TV, te lo guardi immagine grande, capito? Io ce l'ho qua, lo smart TV me l'hanno regalato. Posso scaricare fotografie, posso scaricare di tutto, posso scaricare. Io Marco pensavo che c'era tutta quella roba, la verità. Quando l'ho preso mi fa, dice, ce lo stavo buttando, dice, lo vuoi? Dammelo, gli ho detto. Oh. Quando l'ho piazzato, l'ho acceso, smart TV. E tu come mai ce l'hai ricevuto questo coso, questo televisore? Mi sembra strano. Il ricevitore, faccio l'aggancio, la ricerca automatica, tutti i canali si vedevano, c'era poca di cosa, come commentavo nel menu, ma non c'era manco telecomando, figurati, l'ho comprato io, 10 euro l'altrino. E tutto posso scaricare, foto, filmati, tutto quanto, capito? C'era l'attacco HDMI dietro, e poi di tutto c'è. Bello per quello, un Samsung è un 10 euro questo televisore, ci ho pensato un 40 pollici, ci ho pensato in camera mia, attaccato al muro, con i tasselli grossi, perché se li metto i tasselli quelli normali, tutti uguali, il televisore è anche la staffa. I televisori adesso sono come degli smartphone, molti hanno Android. Vabbè, quello che preferisco, per esempio mamma ce l'ha così, quelli economici, di quelle marche tipo Telefunken, che però non è Telefunken di una volta, è roba cinese. C'è Android, certo costano poco, magari durano poco, però costano talmente poco che fai prima a cambiarlo dopo tot anni. E c'ha tutti gli attacchi, come hai detto tu, ingresso per chiavette USB, peraltro è mai usato per leggere film, non so nemmeno come funziona il sistema, usato poco, tanto mamma non è che naviga con YouTube, capito? Io ho fatto le prove giusto per vedere come si vedevano i filmati in Full HD, vabbè, si vedeva bene, poi fate le prove e tolto tutto, a mamma interessa la TV normale. Ah, questo c'ha YouTube, c'ha Facebook, c'ha tutto, c'ha, non mi manca nulla, questo televisore, devo metterci solo la chiavetta, anche questa è mio nipote, ma questa devo agganciarli, mi ha detto la chiavetta, dice, sì, ci devi mettere, ti compri la chiavetta e sei a posto, va bene, gli ho detto, quando sarà il momento, che mi si gira i papilloni, ho detto, non provo a vedere con la chiavetta, a vedere cosa si vede, se si vede di più o di meno, quello che è. Ma posso usare il wifi, ma c'è anche il wifi questo qui all'interno, però non aggancio più io di cosa ho. Tanto il wifi ce l'ho qua di fronte, solo che ormai da quando ho fatto la modifica l'hotel, ci vuole il codice, capito? Sono andato fregato, dall'altra parte poi, in quel locale là, dove c'erano i videogiochi, no, il wifi l'hanno attaccato, quindi mi sono trovato fregato. Lì ci vorrebbe un bello sniffer dirette, analizzare tutti i pacchetti che escono da lì, e poi mettere a elaborare un computer, magari ci vorrà una settimana, un mese, e magari riesci ad arrivare alla password di accesso, però poi metti che loro la cambino ogni settimana, ogni mese, e rimane fregato lo stesso, capito? Se sono accorti la cambiano la password che danno ai clienti. Infatti va adesso, cioè, tra poco già c'è Starlink, quindi l'hanno già provato, la Vodafone a quanto sembra ci vuole agganciare allo Starlink, quindi basta comprare una carta Vodafone e tramite il telefonino puoi tranquillamente telefonare via satellite, non c'è bisogno di usare un cazzo, capito? Tra poco cambiare tutto, no? Questi corsi, queste carte così spariscono, ci mettono le carte nuove con il processore nuovo eccetera eccetera, quindi puoi fare le chiamate, le videochiamate tramite i satellite senza stare con questi ripetitori, capito? 4G, 5G, meteo alle balle. Quante cose si possono fare al computer, è che bisogna sempre rimanere aggiornati, cosa, mamma mia. Vabbè, io non dopo più gara. Antone, io quasi quasi stacco. Poi vediamo se rientrare più tardi, se entra qualcuno, magari do più room, che ne so. Insomma, siamo decimati in 27, siamo decimati, gente nuova non è, nuova, veramente nuova non entra, perché che rubaggi fa, con i social, con gli smartphone, ti ho detto parli dal polo nord, dal polo sud, se vuoi simulare il baracchino c'è l'applicazione Midland, cosa vuoi di più, c'è Zello, altro che baracchino. Già lo so, ci sono anche altri siti, ci so, c'è un sacco di roba, c'è, ultimamente fa poco con la, come la Vodafone, si aggancia con la, con Starlink, siamo a posto, non c'è bisogno, possiamo fare videochiamate, videochiamate tutto su satellite. Puoi parlare tranquillamente dentro il garage, di grazie a voi, capito? Ha già fatto l'accordo con la scema della Meloni, già lo sai, quindi fatta ammaccami. Ah sì, ho visto che il governo italiano voleva usare Starlink per comunicazioni anche delicate, diciamo, dai. Una volta, almeno per telefonare, esisteva Iridium, ti ricordi i telefoni Iridium? Certo, i costi erano proibitivi e dovevi essere un riccone per averlo. E i telefoni c'avevano quell'antennona grossa, una specie di barilotto con un cilindro, che lo ripiegavi e lo alzavi. Ma forse è un sistema vecchio, magari con Starlink è qualcosa di più rivoluzionario, non saprei. Ti volevo chiedere, ma tu da lì che sei in alto, no, l'hai mai visto passare il trenino di satelliti Starlink? Io ero curioso. La verità non ci ho mai fatto caso, ma penso che già lo vedo, perché vedo la stazione spaziale qua, quando passa. Capito? La vedo spesso. Devo guardare dalla parte di Alghero, si vede questa specie di croce, si vede bella illuminata. Sì, una volta ero andato sul terrazzo, quello nostro, no, non qua nel palazzo, in un altro palazzo. Mi ero portato il binocolo perché sapevo che passava l'ISS a una certa ora. E non è facile da seguire perché c'è una velocità notevole, quindi col binocolo che ti balla tutta l'immagine dell'Eterio. E ti dirò che anche col binocolo a malapena riesci a distinguere la sagoma del veicolo, appena appena, tipo un riflesso dei pannelli solari mi era arrivato o una cosa del genere, o dello scafo, ma è veloce da tenere sott'occhio col binocolo. E praticamente quando è arrivato quasi sulla verticale ha raggiunto un punto, è diventata luminosissima, e poi come è calata sull'orizzonte è calata anche la luminosità. Io lo so, ho visto di adesso che già stanno volando, tra poco arrivano due cicloni, una presa all'altra, quindi è sempre dalla parte della Sardegna, dai. Domani, dopodomani, una bella passata di fulmini in mare, adesso è un periodo che sta scaricando fulmini in mare, dalla parte di Bosa, roba del genere, Alghero. Speriamo che di solito colpisce la Galluna, la zona di Cagliari, l'Ogliastra, fanno più fragili, meno male noi siamo più fortunati a Sassari, perché il giorno dell'ora non si scende da quell'acqua, Sassari è vecchio, non la vediamo più, cazzo. Senti che bel bip. PMR. Che bel bip. Sono i cosi quelli, i blondi sono. È che hanno una modulazione talmente bassa, certi, è come che parlassero lontano dal telefono, ma dal, cioè volevo dire, è come che stessero usando un vivavoce, invece no, non è un vivavoce il portale, il PMR, devi parlare vicino. Su canale 1, sì, mi ave, sì, su canale 1. Devo essere intorno la tua, perché qua arrivano, non arrivano molto. Va bene, Carlo, a dopo, ciao, chiudo. Carlo ha detto, non sarà il cibino, magari sta provando i PMR. Non lo so. No, ha detto passo e chiudo i cibini, non dico passo e chiudo. Se qualche ragazzi, qualche coppia di ragazzi magari stanno usando le portatili così. L'altra volta abbiamo provato un PMR con Vanni, e arrivava benissimo qua, su canale 7, dove vado di subito io. 031, 43, di subito c'è gente su qua, o dello 56 o dello 68, di subito. Ah, benissimo. Certo c'è cosa qua, io sento il bar che c'è in via Fodalini, che c'hanno il portatile, e poi quei cinesi che lavorano giù a Pedalietta. Anche quelli becchi. Vabbè, d'altronde a Pedalietta hanno gli 888, quindi sono 2 watt circa, per quello. Ti volevo dire qualcosa, e poi ho perso il filo del discorso. Stavo parlando di Starlink, DSS, e poi mi sono distratto, Antonio. Cosa avevi detto della stazione spaziale? L'avevo stesso, però pensavo che fosse quella, ma si vede benissimo. Arriva a un certo punto, quando ho messo il gelome, che rimane un bel luminosa, sembra la croce di Gesù Cristo, sembra, quindi, capito? Riesce a distinguerla meglio, caspita, io col binocolo non era facile seguirla, e poi era più veloce di quanto pensassi. D'altronde è un missile, non so quanti chilometri al secondo faccia, mamma mia, già che cosa che avrei potuto fare io, dentro una scatola di metallo lanciato a velocità folle nello spazio, non spazio esterno, ma infatti. Beh, adesso i cinesi si stanno attrezzando, vogliono fare anche loro come Elon Musk, piazzare un bel po' di satelliti per tutto, hai capito? E così fanno i soldi anche per quello. I cinesi cioè sono evoluti come elettronica, sono come i sottocorregali, tale uguale, già si arrangiano, già hanno anche la loro stazione spaziale, già, figurati tu. Sì, guarda, i cinesi sono nel pieno boom economico, digitale, tutto. Stanno diventando come erano i giapponesi negli anni, che ne so, 70-80. Stanno vivendo il loro culmine della tecnologia aerospaziale, automobilistica, perché vabbè, noi critichiamo molto le macchine cinesi, soprattutto quelle elettriche, però ci sono prodotti di alto livello, ci sono, ma da noi non arrivano, cioè non li vedrai mai a Sassari, li puoi vedere in quei paesi VIP. Uno ha detto agli Emirati Arabi, ha visto certe macchine cinesi di lusso, da non avere niente da invidiare a Mercedes, a BMW, eccetera, e anche marche anche più, però è roba per VIP, capito? Cioè, la roba buona i cinesi la fanno, però giustamente più buona è, più costa, non è la portata di tutti. Costa, gli auguri costa, devi pagare di tutto, devi pagare. e fatela arrivare qua. Poi come cazzo fai a ripararla se ti si suacca un pezzo? Adesso vogliono fare a quanto sembra le macchine cinesi, quelle elettriche, le vogliono importare dalla Cina e fare lo stabilimento qua ai cinesi, capito? E così vuole fare quello scemo di americano, vuole piazzare la Tesla qui, hai capito? Aspetta, non ho capito cosa vuol fare quello scemo di americano, vuole piazzare? Lo stabilimento della Fiat se vuole prendere, per costruire la Tesla qui in Italia. Vabbè, se la possono ottenere per ora. Poi, fra 100 anni, quando ci saranno tante stazioni di ricarica, quanti distributori di benzina, ne riparleremo. Ma penso che duri poco con le macchine lì. Useremo le macchine volanti, usiamo. Ti siedi dentro e... capito? E ti vedi, a posto dell'aereo, ti vedi le macchine che volano sopra il tetto tuo, cazzo, a 20 metri di distanza. Il bello è se sbaglio la pigliamo qualche palo. Ma basta che non becchino l'antenna. Sì, guarda, stanno facendo già, però sono dei prototipi. E poi sai cos'è sorvolare là il centro abitato con una bestia del genere? Hai presente i droni, no? Quei quadricotteri con 4 eliche. Li stanno facendo a grandezza di macchina, grandi quanto un'automobile, quindi con le eliche grandi. Il tipo entra dentro, sai, comandi, è come pilotare un elicotterino. Però naturalmente non è cosa per tutti non sorvolare una città con un mezzo che pesa centinaia di chili, se ti ne ingaggi fa danno, è come un aeroplano piccolo. Sì, con tutti quei telecci che ci sono, nulla, se ne passa uno lì, becca il ripetitore di motore, le la vai, tu mi secco e pesto. Eppure, ma Antonio, prima o poi in futuro diventerà come nei film che abbiamo visto, macchine, noi le chiamiamo macchine volanti, naturalmente con forme magari diverse dall'automobile, magari assomiglieranno più a droni, roba del genere, però saranno in proporzione fra 100 anni molto più affidabili, sarà roba che non te ne cade in testa da un giorno all'altro, capito? Così come le macchine, magari ci saranno macchine della guida autonoma, però che non ti buttano nel burrone, capito? Che non vanno contro mano, si tirano i pali, no? Saranno più affidabili. Beh, con tutti quei satelliti che ci sono, ci sarà un casino, uno disturberà l'altro, senz'altro con i satelliti, vedrai. Si metteranno d'accordo e tutti quelli che ci sono, i satelliti li eliminano, lasciano solamente un coso per... con la mondezza che c'è su, voi siete descende uno al giorno, hai visto quelli di Starlink? Durano un mese, 2 mesi, poi ne pigliano e ne scendono. Sembrano meteoriti, sembra. Capito? Perché sono fatti per durare 2 mesi, 3 mesi, quindi, per il momento. Ehi, aspetta che ho ricevuto una notifica sul cellulare, sull'orologio, aspettami. LS7, allora Cina, un robot intelligenza artificiale malfunzionante colpisce una donna con una testata. Me, come intendi, Johnny? Skynet, lo finiamo tipo Skynet di Terminator oppure come in Matrix, con questa intelligenza artificiale, occhio! Sì, adesso si copriranno come hai visto in Cina. Ci sono le cose uguali alle persone, non fai altro che portare a casa, te la metti nel divano. E poi, lui, fai quello che devi fare insieme a quello. Dov'è che c'era un sacco dove non si può uscire in casa, non mi ricordo. Ho indicato se si uccida una, se si uccida di donna, forse in Cina o in Corea, non mi ricordo. Ma perché non si può uscire di casa? Perché è vietato, hai capito? non è tutti quei condomini in Cina che ci sono Alpi, cazzo, con che ci abitano 600-900 persone, mica vanno in strada, no, quelli. E rimangono a casa e basta. E tutti stanno tutto il giorno dentro a casa, stanno. E quando sono soli, che non c'è mai qualcosa del genere, e magari è morto, roba così, e rimangono vero, e loro si suicidano, cazzo. Ah, me lo ricordo, aspetta, c'era quel palazzo in Cina fatto a uno che c'ha come quel cortile interno, guarda, quella è una cosa veramente spaventosa, un alveare, ma hai visto anche i singoli appartamenti, certi sono così piccoli, nemmeno i topi vivono così, e dice che sì, ogni tanto lì, poi mi pare sia pure senza ascensore, non so se sia vera questa cosa però, quindi immaginati a salire su. E lì ogni tanto ne trovano uno morto in questi appartamenti, morto di morte naturale, qualcuno sì, che si suicida, perché lì lavorano e poi tornano in queste case minuscole, una cosa invivibile, cioè te l'ho detto, nemmeno i topi. È spaventoso quel palazzo, sapevo anche il nome, adesso non me lo ricordo. Che fanno in pratica casa, lavoro casa, cioè non mi sembra 2 o 3 ore per dormire, dopodiché se devo alzare e andare a lavorare lì stesso, a quanto mi ricordo io. Come gli schiavi, a tipo maiale, visto che quel caseggiato di maiale, altro 6 piani che c'è in Cina, dove sfondano maiale al nastro. Il maialificio. Allora, tu un gatto a cielo, tu vieni di maiale, così la mettono che ci sono i, come si chiama, c'è il Covid, con i pipistrelli, sai i pipistrelli che ci saranno in giro? Sì, comunque a quei livelli è alienante il lavoro, In Giappone, diciamo, hanno dei microappartamenti da 30, 40, 50 metri quadri, credo 30 anche, 20 forse, non lo so, guarda, sono delle celle, tipo galera, tutta la puoi fare carina quanto vuoi, però lì lavori non so quante ore al giorno, a seconda di che lavoro fai, cioè lavori, arrivi a casa, fai in tempo a lavarti, a mangiare e dormire poche ore, e poi di nuovo lavoro. E dice che è talmente alienante in quei posti là, e anche in Cina, dipende appunto dalle zone, dalla borghesia, che molti non durano molto, cioè non vivono molto, o si suicidano. E guarda, se vedi anche in Giappone, nella metropolitana, c'è gente che torna da lavoro distrutta, che si addormenta in metropolitana, roba che se ti perdi la fermata ci esci dalla parte opposta del Giappone o della città, che sono già città gigantesche, no, non è Sassari, distrutti dalla fatica, però così anche la salute mentale ne soffre, non solo il fisico. E dice infatti che in Giappone c'è un altissimo tasso di suicidi, soprattutto nei centri metropolitani. C'è anche una foresta adiacente, mi pare, alla città, che è nota per, lo chiamano il giardino dei suicidi, è una cosa allucinante. E infatti in Giappone fanno così. Lavorano, appena finiscono di lavorare vanno direttamente, mangiano. Dopodiché si addormentano, mi sembra 2 o 3 ore, non è più possibile, vanno di nuovo al lavoro. Addirittura mangiano lì, nel posto di lavoro mangiano, il pranzo, lo fanno lì, figurati. Comunque vedi, te l'ho detto, in Giappone magari la casetta è piccola ma ha l'aspetto di una casa, ma quel palazzo enorme cinese, guarda, ci sembrano delle microcamere, dei loculi, a me sembravano dei loculi, delle bare, già pronti a essere portati via, per carità, guarda, è incredibile. Vabbè. Te la fai succedere così, basta per portarli in Ucraina. Capitolare un aereo e si suicidano così, si buttano a capofitto direttamente dove sono i russi, a voglia giapponese che ce ne sono, non sono riusciti gli americani a ammazzarli tutti, figurati i russi. E lì è roba dal 2014 che c'erano macelli da quelle parti. quindi molto prima è iniziata questa guerra tra virgolette. Vabbè, è inutile anche parlarne. Antone, sono le 6 quasi. No, le 6 in punto. Io ho necessità di staccare, dai, abbiamo parlato già un bel po', anzi più di quanto avrei dovuto. E ci sentiamo quando capita, ok? D'accordo, ok, ci sentiamo, stavi bene Marco. Eia, ciao Antone, ciao ciao. Ciao ciao. Comunque novità niente, per quella sole di Smither, sto guardando ormai tutto, ci ho detto, 3009 e Alan 48, quelli Smither. Gira gira trovi, anche se sono rari, che non ne trovi usati di quegli apparati per pezzi di ricambio, trovi più apparati nuovi che pure sono già rarissimi. Mi sa che va bene lo Smither dell'Alan 48, perché ho guardato il catalogo Midland e lo Smither dell'FM500S rimane più stretto o più alto, invece l'Alan 48 ce l'ha più stretto e meno alto. Mi sa che vanno bene quelli, capito? Andiamo solo a cercare un coso e prendere la misura. Se come dico io va bene quello dell'anno 48, che ho guardato le fotografie l'altro giorno. Neanche passo a Torino se c'è qualche baracchino per pizzica. Se me lo dà, ma sarà difficile. Mi dirà, no, non c'è niente, non ne uso, non ne ho più di quella roba. E sai quanti ne ha di quegli apparecchi lampati in chibi, che ma quello ce ne ricorda dove li ha messi. Lì è un casino anche trovarli, cioè immagina se c'è la baronda all'ingresso come sarà lì nel magazzino, mamma mia. Quindi però sai cos'è Antonè, che lo Smither dell'Alan 48 è bianco, non so se a te piace, eppure lo devi trovare possibilmente con LED bianco, perché con LED blu non si azzecca con quell'apparato, a parte che bianco non l'avrei mai messo sull'LMS 200, oppure vabbè uno si accontenta, basta che funzioni. No, tranquillo, c'è la lampadina, c'è, quindi LED bianco non ce n'è bisogno, c'è ancora la lampadina, c'è, ma mi sa proprio che è del Midland questo Smith. Adesso il 27 se mi caricavo la carta, se ci sono, se riesco a tirare contanti, tu controlla, capito? Due soldi me ne ho di uno, sta via in culo, no, non è che tanto costano, penso 10-20 euro, non di più questo Smith. Lei, se vuoi, guarda, se tu, l'importante è che tu sia sicuro delle misure in millimetri, larghezza, altezza, almeno quello, e poi si può ordinare, qui te l'ho detto, bisogna vedere, magari a te piace anche blu, non so, vedi tu, però su quell'apparato così retro non ce lo vedo, vabbè. Ok, di nuovo Antone, dai, buona serata, buon tutto, ciao. Ciao, a dopo sente, a domani. Saluto di bene alla parte mia, ciao. Pompa, pompa, io sono qua che sto stendendo. Nello stenditoio interno però, E capretto! Gianni, tu sei? Okay. Sonny. Thank you.